X24, i gialli della storia. Il 20 aprile del 99 gli Stati Uniti assistono al più sanguinoso episodio della loro storia. Due studenti della Columbine High School in Colorado, Eric Harris e Dylan Klebold, entrano nell'edificio della scuola armati fino ai denti e aprono il fuoco su compagni di scuola e insegnanti. Il bilancio del massacro sarà di 12 studenti uccisi, un insegnante, oltre a 24 feriti. Un'intera comunità colpita al cuore e terrorizzata. Noi oggi a Mix24 cercheremo di entrare nella mente devastata di questi ragazzi e così raccontare questa storia con l'aiuto delle testimonianze dei superstiti e dei parenti che hanno vissuto questa terribile avventura attraverso le ricostruzioni basate su documenti e dichiarazioni dei protagonisti. Little Town, una cittadina non lontano da Denver, Colorado. È qui che le fantasie omicide di Eric, 17 anni, cominciano a prendere forma. Insieme ad un amico soprannominato Vodka, o semplicemente V, egli ha intenzione di commettere un atto di tale violenza da guadagnarsi un posto nella storia. Nell'aprile dell'anno prossimo, io e V ci prenderemo la nostra vendetta e scaleremo la classifica della selezione naturale. Basterà imparare a fabbricare bombe ad orologeria. Ne piazzeremo centinaia su strade, ponti, palazzi, pompe di benzina, in qualunque luogo dove possano creare caos. Sarà come la rivolta di Los Angeles o l'attentato di Oklahoma City, la Seconda Guerra Mondiale, il Vietnam, tutto mescolato insieme. Voglio lasciare un segno duraturo su questo mondo. Sono le 11:08 del mattino. Eric Harris è a 3 minuti dall'ingresso del liceo Columbine. L'MBK è arrivato presto. Ora tutto ciò che vedo e sento è in qualche modo collegato all'MBK. È come un film dell'orrore. MBK è la sigla in codice del massacro che Eric e Dylan stanno per compiere. Sta per Natural Born Killers, Assassini Nati, un film di Oliver Stone che i due ragazzi amano molto. Ma perché Eric e Dylan provano questo senso di alienazione? La risposta, forse, va ricercata proprio in quella scuola. Mi avete sempre escluso dalle vostre cose più divertenti. Vi odio tutti e non venitemi a dire «è colpa tua», non è vero. Avevate tutti il mio numero e nessuno, cazzo, nessuno di voi si è mai degnato di farmi una telefonata. Nessuno, vaffanculo! Nella tacita gerarchia della Columbine High School, Eric e Dylan si vedono all'ultimo posto. Due tipici adolescenti introversi che stanno sempre assieme agli esclusi della scuola. I ragazzi più cercati sono invece quelli che brillano negli sport. Un gruppo a sé, con regole proprie e un proprio codice di abbigliamento, a partire dai cappellini bianchi da baseball. Al momento di imbracciare le armi, Eric e Dylan non le punteranno subito contro questa elite. Molte testimonianze indicano che la loro sete di vendetta è rivolta a tutta la scuola. Ore 11:09. La mensa della Columbine High School comincia a riempirsi di studenti per la pausa pranzo. In un momento imprecisato della mattinata, Eric e Dylan sono riusciti a collocarvi due ordigni al propano da 7 kg circa ciascuno. Entrambi sono programmati per esplodere alle 11:17, proprio nel momento di massima affluenza di studenti. Eravamo alla terza ora, un'ora di filosofia. Ricordo che facemmo un compito in classe sulla filosofia cinese. Eric, in genere, ci teneva molto a questi test e quindi rimasi molto sorpreso di non vederlo quel giorno. Quando suonò la campana e iniziammo la quarta ora, notai che Eric non c'era ancora e che neanche Dylan era in classe. Era davvero strano. L'assenza dei due ragazzi dalle lezioni appare solo come una stranezza. Nessuno può neanche immaginare quello che i due hanno in mente. Hanno già piazzato due bombe alla mensa che scoppieranno alle 11:17. Sono le 11:10. John Savage, amico dei due, ha appena finito la lezione di musica. Quel giorno arrivai a scuola presto e misi a finire i compiti. Era uno di quei giorni in cui non ti aspetti che succeda nulla. Avevamo appena concluso l'ora di musica, studiavamo gli strumenti a corda. Ero indeciso se andare ad esercitarmi un po' nella sala musica della scuola oppure se andare in biblioteca. Tra gli insegnanti in servizio quel giorno c'è anche Dave Sanders. Buongiorno. Insegna educazione fisica ed è molto popolare tra gli studenti perché sa tirare fuori il meglio anche tra i meno dotati nello sport. Patty Nilsson, invece, è un insegnante di 35 anni che lavora part-time. Normalmente, dopo la sua lezione di arte, la Nilsson torna a casa. Il 20 aprile del 99, però, è di turno per sorvegliare i corridoi che si riempiono per la pausa, nella zona attorno alla mensa. Sono le 11:11. Dopo la lezione di scrittura creativa, in genere mi vado a fare una sigaretta. A un certo punto notai che Eric si stava avvicinando. Era mancato nelle prime due ore e quindi decisi di andare a parlargli per capire cosa fosse successo. Lo chiamai prendendolo un po' in giro. Lui si mise a ridere e mi prese un po' in giro a sua volta. Retrospettivamente immagino di essere stato molto fortunato. Lo stavo quasi insultando, eppure non mi ha sparato. Mi guardava fisso. Gli dissi: sei un cretino, hai saltato il test. Lui rispose che ormai non gli interessava più e aggiunse: Brooks, tu mi sei simpatico, vattene via di qui al più presto. John Savage decide di andarsene in biblioteca a ripassare. È proprio in quell'aula che si verificherà il maggior numero di morti. È una strage premeditata. È più di un anno che Eric e Dylan hanno lucidamente messo a punto il loro piano e ora è giunto il momento di entrare in azione. Sono le 11:12. Eric e Dylan arrivano a scuola con un vero e proprio arsenale. Dopo il massacro, la polizia conterà due fucili, due pistole da 9 mm e 99 bombe, tra cui quelle al propano piazzate nella sala mensa, e trappole esplosive in ognuna delle loro automobili. Eric e Dylan ci hanno messo un anno per mettere insieme tutte queste armi. Il loro obiettivo, cancellare la loro scuola dalla faccia della terra. Ma come hanno fatto due ragazzi a mettere insieme un così grande numero di armi letali? Questa domanda non trova ancora una risposta. I genitori di Eric, dal giorno del massacro, non hanno mai reso dichiarazioni pubbliche. Ore 11:15. Nel parcheggio della scuola, in un angolo discosto, Neil Gardner sta pranzando insieme a Andy Martin, addetto alla sicurezza della Columbine High School. Gardner è un agente di polizia che ha il compito di proteggere gli studenti e gli insegnanti della scuola. Gli è capitato spesso di vedere Dylan Klebold. Al contrario, non conosce Eric Harris. Ne sa che sia lui che Dylan in passato hanno avuto dei problemi con la polizia. 30 gennaio 1998. I due ragazzi rubano da un furgoncino alcune attrezzature elettriche e vengono arrestati con l'accusa di furto con scasso e appropriazione indebita. Al processo i ragazzi vengono condannati a seguire dei corsi di recupero per giovani a rischio. Terminato il suo corso, Eric dà l'impressione di essere pentito. Posso affermare con soddisfazione che con l'aiuto della classe e di altre istituzioni voglio ora provare a controllare la mia rabbia e le mie reazioni violente. Ma il diario di Eric racconta un'altra storia. Ma l'America non era il paese della libertà? E che razza di libertà è se non posso neanche derubare un pezzo di idiota dei suoi averi che ha lasciato in bella vista nel suo cazzo di furgoncino, in una cazzo di terra di nessuno, in un merda di venerdì sera? È selezione naturale. Quel coglione merita la morte. La mia rabbia dopo l'incidente di gennaio sarà senza fine. E poi la vendetta verso il Commons. Ore 11:16. Il Commons è la tavola calda della Columbine High School. Eric e Dylan hanno progettato l'attacco in ogni dettaglio. Le bombe esploderanno nel giro di un minuto. All'interno ci sono 480 studenti, circa un quarto dell'intera scolaresca. Richard Castaldo sta andando a incontrare la sua amica Rachel Scott. Hanno deciso di mangiare qualcosa insieme nei pressi dell'ingresso ovest della scuola. Quando mi sono seduto per mangiare qualcosa, vidi due ragazzi che avanzavano sulla mia sinistra. E a quel punto tirarono. Lì per lì non sapevo cosa fosse, poi seppi che era una pipe bomb. La lanciarono, ma non scoppiò, pensai. Deve essere uno di quei soliti scherzi idioti che si fanno alla fine della scuola. Ma non è uno scherzo, quei due ragazzi fanno sul serio e la prima vittima della strage è proprio quella ragazza seduta accanto a lui. Prima colpì Rachel, ma poi, nel giro di mezzo secondo, ricordo che guardai con la coda dell'occhio e mi rannicchiai a quel punto. Ore 11:17. Ho visto che hanno lanciato un paio di granate sul tetto, che sono subito esplose. Poi hanno preso a sparare con i fucili verso il parcheggio. All'interno della scuola nessuno si rende conto di quello che sta succedendo. Qualcuno pensa alla solita bravata degli studenti più grandi. Dave Sanders, invece, si rende subito conto che si tratta di qualcosa di molto più grave. Che tu venga immediatamente alla mensa. Neil Gardner riceve un allarme via radio dall'interno della scuola. Sul momento, però, pensa che si tratti di un problema da poco. Nel giro di pochi secondi, Dave Sanders e altri due impiegati della Columbine High School sono riusciti ad evacuare la mensa. Le bombe di Eric e Dylan stanno per esplodere da un momento all'altro. Fortunatamente, però, qualcosa non funziona. Sean Graves, ferito, sta tentando di salvarsi raggiungendo la mensa. Sente i passi di uno dei due assassini che provengono dal corridoio. Fa finta di essere morto. Quando arriva Dylan, trova la mensa apparentemente vuota. Non ci sono bersagli facili. Dave Sanders, intanto, tenta disperatamente di salvare il maggior numero di persone possibile. Da queste parti, rimanete fermi, immobili, chiaro? Mi raccomando. Nei due minuti successivi, Sanders corre su e giù per i corridoi e le classi per cercare di fornire agli studenti qualche forma di protezione. In un laboratorio di scienze del piano superiore, Aaron Hensi, 17 anni, sta terminando un esperimento iniziato a casa. Era l'ora di pranzo. Io me ne stavo in laboratorio quando improvvisamente ho sentito delle urla. Una cosa orribile. Alla fine entrò in aula un insegnante e ci disse quello che stava capitando. Neil Gardner è il primo agente di polizia ad arrivare sul posto. Finito lo scontro a fuoco con Gardner, Eric e Dylan danno inizio all'attacco dentro la scuola. Una sparatoria. Ci dice che i due sospetti sono appena entrati nell'edificio. Assicurati che i laboratori siano chiusi. Sì. Dave Sanders sta ancora cercando di liberare i corridoi. Nel frattempo, alla scuola, arrivano altre 5 unità della polizia. Sanders è gravemente ferito. Il massacro dentro la scuola sta per cominciare. Il sangue freddo del professor Sanders ha salvato la vita a molti studenti, ma il suo eroismo non è servito a metterlo al riparo dalla follia omicidia dei due ragazzi. Intanto, sono le 11:26. Ore 11:26. Lo studente Aaron Hensi è ancora rinchiuso nel laboratorio di scienze. Arriva una delle sue insegnanti. Sta cercando qualcuno in grado di prestare un primo soccorso. Gli disse che avevo qualche nozione e mi precipitai con lui nel corridoio. Si sentivano le esplosioni di altre bombe e i colpi di fucile. Da un momento all'altro avrei potuto trovarmeli davanti. Dave Sanders si trascina fuori dal corridoio. Arrivato vicino al laboratorio di scienze perde i sensi. Le sue condizioni sono gravissime. Quando arrivai da Dave era ancora cosciente, perfettamente consapevole di che cosa stava succedendo. Ma perdeva molto sangue. Mi resi conto che molto probabilmente era stato colpito al petto, da distanza ravvicinata. Vidi che aveva due fori. Aveva preso due colpi ed erano due brutte ferite. Speravo di poterlo fare uscire perché aveva bisogno di cure, forse addirittura di essere operato. All'esterno della scuola sono ormai arrivate 6 unità della polizia. Alcuni agenti hanno cominciato a prendersi cura degli studenti terrorizzati o feriti nel parcheggio. Altri invece circondano la scuola. Mentre la polizia resta fuori dall'edificio, i due allievi killer percorrono indisturbati lunghi corridoi della scuola e arrivano nella biblioteca dove si nascondono 56 studenti terrorizzati. È la parte più brutale del loro piano. È il momento della follia omicida. Sono le 11:29. Tutti quelli con il cappellino bianco in piedi! Questo è per tutto lo schifo che ci avete fatto vivere negli ultimi 4 anni! Ci dissero di uscire perché volevano far saltare in aria la biblioteca. Pensai, beh, se fanno saltare la biblioteca vuol dire che non ce l'hanno con noi. Forse non faranno del male a nessuno. Perciò decisi di alzarmi, convinto che sarebbe bastato alzarsi e andarsene, e quell'orribile storia sarebbe finita lì. Ma quando vidi che nessun altro si alzava, rimasi anch'io a terra. Molto bene, allora comincerò a sparare. Aaron Hansi cerca in tutti i modi di mantenere Dave Sanders cosciente. Lo aiutano un insegnante, un altro studente, ma anche suo padre, che dal telefono gli dà consigli utili. Aaron tira fuori dal portafogli di Sanders le foto della famiglia per farlo parlare dei suoi cari. Fu una cosa molto utile. Lo aiutò ad uscire fuori, anche mentalmente, da quel momento così orribile. Cercavo di farlo pensare, almeno per un attimo, non alle cose che gli procuravano dolore, ma a quelle che erano per lui fonte di gioia e consolazione. Durante la sparatoria, potevi sentire Dylan dire una serie di cose alle persone prima di ammazzarle, cose che Eric invece non faceva. Ci fu una grossa differenza di comportamento fra i due. È molto difficile sentire le voci, soprattutto per me che conosco sia le vittime che i carnefici. Vedevo i suoi stivali, si stava avvicinando sempre di più, passando attraverso gli scaffali dei libri. Pensai, ci siamo, è arrivata la mia ora, morirò da un momento all'altro. Vi assicuro che fu una sensazione orribile. Chi c'è là sotto? Dimmi come ti chiami. Gli dissi, sono John, perché Eric un po' lo conoscevo e speravo si ricordasse che non era uno dei fighetti della scuola. L'avevo sempre trattato con rispetto, non l'avevo mai preso in giro. John Savage? Sì. Dylan, che stai facendo? Sto uccidendo. Fu orribile. Poi l'ho guardato e gli ho chiesto, hai intenzione di uccidermi? E lui, cosa? Perché con tutti gli allarmi e le sirene non si sentiva bene. Allora gli ho ripetuto, hai intenzione di uccidermi? Hai intenzione di uccidermi? No, esci fuori di qui. Corri. Vattene. Corri! Mentre John scappa dall'incubo, la polizia finalmente è accorsa in forza. Gli agenti sono a poche decine di metri dalla biblioteca e avvertono nitidamente gli spari, ma nessuno interviene. Per almeno un'altra mezz'ora nessun agente entra nella scuola. La polizia non ama che questo venga ricordato, ma mentre quei ragazzini innocenti venivano brutalmente ammazzati nella biblioteca, le porte di quell'aula erano aperte. I poliziotti dall'esterno sentivano le urla di terrore dei ragazzi, gli spari, e se ne stavano tranquillamente appoggiati alle loro macchine. Ascoltavano senza far nulla per entrare e liberare gli ostaggi. Li hanno lasciati massacrare, e questo è inaccettabile. 7 minuti, tanto dura il terrore in biblioteca. Poi d'improvviso alle 11:36 è tutto finito. Dylan si trova davanti uno degli atleti più celebri della scuola, Ivan Todd, gravemente ferito. Lo minaccia, lo insulta, ma non lo uccide. Eric e Dylan lasciano la biblioteca. 12 studenti sono già morti, 23 gravemente feriti. Hanno ucciso a caso, senza scegliere. Sono le 11:36 e la scuola è ancora piena di studenti e insegnanti terrorizzati. Dappertutto nella scuola sono nascosti centinaia tra studenti e insegnanti. Ad un certo punto, mentre Teresa era ancora al telefono e cercava di guardare all'esterno per capire cosa stesse succedendo, vide Eric e Dylan scendere nella sala. Stavano ricaricando le armi, proprio di fronte alla classe. Le porte avevano un vetro e quindi loro potevano vedere all'interno. Scappai di corsa. È stato uno dei momenti peggiori di quel dannato giorno. Erano a pochi passi da noi. Il giorno dopo, seppi che Dave era morto. È stato uno shock. Lui era sicuro che l'avremmo portato fuori e che ce l'avrebbe fatta. Non riuscivo a pensarci. Io ero stato il primo a soccorrerlo. Avevo fatto il possibile. Eric Dylan ora sembrano muoversi per la scuola senza una meta precisa. Il diario segreto di Eric e le registrazioni video trasmettono l'impressione di una mente disturbata, agitata da progetti megalomani di distruzione. Ore 11:44. Eric cerca di far scoppiare uno degli ordigni nella mensa. È il suo primo tentativo di suicidio dall'inizio dell'attacco. Un mese prima il medico ha prescritto a Eric un antidepressivo, lo Zoloft, un farmaco indicato nel trattamento di disordini ossessivi e compulsivi. Ciononostante, le condizioni del ragazzo hanno continuato a peggiorare. È la terapia sbagliata di Eric a ricoprire un ruolo chiave nella tragedia della Columbine High School? Oppure la risposta va cercata nella sua condizione psichiatrica, cui i farmaci cercavano di porre rimedio? Nei 3 anni precedenti la tragedia della Columbine, ci sono stati 10 attacchi armati di studenti americani alle proprie scuole. In nessuno di questi sono morte più di 5 persone. Ma Eric e Dylan avevano in mente di ucciderne a centinaia. Nella speranza di capire che cosa li abbia portati a immaginare un simile massacro e ad attuarlo con una tale freddezza, è stato analizzato ogni aspetto della loro breve vita. La risposta, forse, è che non esiste una sola causa. Eric e Dylan, forse, sono solo il risultato di una serie di cause, di una serie di circostanze che hanno fornito loro mezzi e motivazioni per compiere un incredibile atto di terrorismo adolescenziale, facilitato a sua volta da omissioni e superficialità da parte della polizia, dei genitori, dei medici e della scuola. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.